La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua come ogni sabato alle 18, un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, il nostro settimanale di cinema, qui su Radio 24, tutto il cinema che c'è, chiaramente tutto il cinema che c'è in sala, ed è la settimana di Paolo Virzì e del suo La Pazza Gioia, ma anche di X-Men Apocalypse, fra poco ne parleremo, ma è anche la settimana in cui si conclude, anzi è questione ormai di ore, il Festival di Cannes. Domenica sera la cerimonia di assegnazione della Palma d'Oro, e allora andiamo subito a Cannes, andiamo a parlare di Cannes con Giulio San Giorgio, che avevamo trovato 7 giorni fa e ci aveva raccontato i primi giorni, i primi film. È passata una settimana, adesso il Toto Palma si è fatto qualcosa di più concreto, e siccome pare che al presidente della giuria del Festival di Cannes, Georges Miller, sia piaciuto molto un film che si intitola American Honey, ascoltiamo questa clip. I suoni originali del film American Honey, ci colleghiamo con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Hai visto molto di questo Festival di Cannes, questo film pare sia piaciuto al presidente di giuria, quanto questo ne fa il favorito per la Palma d'Oro? Ma direi che quest'anno il festival è stato quasi, cioè, di alto profilo, i film, ci sono state pochissime delusioni, anche se qualche autore si pensava potesse fare il botto, in realtà è stato abbastanza poco apprezzato dalla critica, penso a Xavier Dolan oppure a Olivier Assayas, il suo Personal Shopper, ma anche a The Neon Demon di Nicholas Winding Refn, che è stato accolto forse dalla dose maggiore di fischi di tutta la rassegna. Detto questo, e nonostante anche questi film siano veramente degni di nota, il film che pare possa vincere, secondo appunto indiscrezioni, è appunto questo American Honey di Andrea Arnold, che è il primo film americano girato dalla regista britannica di Red Road e Fish Tank, che sono anche passati in Italia. Ed è una regista che racconta storie sempre di marginali. Questa è la storia di una giovanissima donna che vive in miseria e che incontra una sorta di congrega di venditori di riviste che viaggia per tutta America facendo baldori, a feste, divertendosi, anche raggirando i clienti per guadagnare dei soldi. È qualcosa veramente di diverso da quello che pensiamo possa piacere al regista di Mad Max Fury Road, anche se ha diversi punti in comune, primo tra tutti il fatto che è un road movie dove è importante l'immaginario, il paesaggio, la musica. Non so se avete appunto la clip che abbiamo sentito, è piena di musica, il film potrebbe durare 10 minuti o 10 ore, Andrea Arnold ha scelto 2 ore e mezza, perché la macchina da presa si sofferma su questi ragazzi che cantano. È un film in cui ci si immerge nella realtà di questi personaggi in maniera molto viscerale, e penso che questo abbia molto affascinato il direttore, il presidente di giuria. Ci sono ovviamente dei concorrenti forti, si parla molto bene di questa commedia tedesca Toni Erdmann. Sì, è una commedia diretta da Mare Nade, che è una grande produttrice di Miguel Gomes, e ci aveva già affascinato con un piccolo film di qualche anno fa, girato tra l'altro in Sardegna, Everyone Else. E qui ci stupisce con la storia di un padre che raggiunge a Bucarest la figlia, donna assolutamente in carriera, per donarle quel tanto di gioia di vivere che le manca, e deridendo con una serie di travestimenti via via più assurdi e molto divertenti la serietà e la cecità del mondo del business. È un film quasi privo di pretese, leggero, antiautoriale, con personaggi magnifici, ed è per ora quello che la critica ha applaudito maggiormente. Che cosa ci ha lasciato, cosa ci lascia, indipendentemente da come andrà a finire questo festival, quali sono magari un paio di titoli, insomma, veramente da salvare, che ti hanno colpito? Ma devo dire che il cinema rumeno si conferma in grande spolvero con 2 film, uno di Cristian Mungiu, che aveva già vinto la Palma d'Oro, e uno di Cristi Puio, che sono ritratti secchissimi della società rumena. Ma è stato un film in generale pieno di film anche coraggiosi. Penso ad esempio alla Delegazione francese con Malut di Bruno Dumont e Resté Vertical di Alain Giraudy, ma anche il film di Assayas, che sono dei film veramente fuori canone, veramente eccentrici. Ed è strano addirittura che siano stati prodotti dei film così particolari e fuori norma. Quindi anche questi sono. È un concorso che, nonostante porti in concorso tutta una serie di nomi già conosciuti, porta in concorso invece film che sono molto molto coraggiosi. Forse quello che io ho preferito tra tutti questi è Patterson di Jim Jarmusch, che è un piccolo capolavoro di minimalismo geometrico e surreale sulla condizione di un autista di autobus e della sua voglia di poesia. Tra l'altro un film prodotto da Amazon, che quest'anno aveva addirittura 5 film a Cannes, e che è assolutamente una realtà quella delle piattaforme che producono poi film anche per il cinema, che insomma è molto, molto interessante. Assolutamente, Amazon che si sta ponendo ormai come concorrente di Netflix, il che però pone per il momento qualche problema distributivo su Patterson di Jarmusch per l'Italia, per esempio. Speriamo che qualche distributore italiano se ne innamori e lo porti anche qui da noi. Avremo modo e tempo nelle prossime settimane di parlare di questo tema, perché stiamo per regalarvi una chicca, insomma, una piccola area, neanche tanto piccola, del nostro programma dedicata alle serie TV. E quindi, insomma, restate sulla Rosa Purpura. Pure pian pianino vi sveleremo tutto anche attraverso la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpura Radio 24. Grazie Giulio per averci raccontato il Festival di Cannes. Ci sentiamo la prossima settimana, Giulio. Ciao Franco, alla prossima. Allora, a questo punto, viabilità, torniamo insieme, cominciamo a tuffarci nei film di questo weekend in sala. Partiamo con X-Men Apocalisse, ma vi ricordo che più tardi toccherà a Paolo Virzì, che sentirete qui in intervista esclusiva con il suo La Pazza Gioia. La Rosa Purpurea. Continua la Rosa Purpurea qui su Radio 24 con i film del fine settimana. Vi ricordo il film sul quale ci focalizzeremo maggiormente è La Pazza Gioia di Paolo Virzì, un film, ve lo anticipo, straordinario, di cui avremo qui ospiti in intervista esclusiva Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, una delle due protagoniste, insieme a Valeria Bruni Tedeschi. Abbiate un po' di pazienza, fra po' ne parliamo. Prima però ci dedichiamo al blockbuster della settimana, potremmo chiamarlo, perché arriva nelle sale X-Men Apocalypse. Le cose vanno meglio. Il mondo è migliorato. Anche se non c'è la guerra, non c'è la pace. Lo chiamano Apocalisse. È una specie di dio. Per migliaia di anni ha abitato mutanti per assumere i loro poteri. Ha sempre avuto 4 seguaci. Come i 4 dell'Apocalisse. Eric, non unirti a loro. Qualunque cosa tu creda di aver visto in me, l'ho sepolta con la mia famiglia. Sta arrivando. Sta arrivando l'Apocalisse, che verrà o non verrà fermata dagli X-Men. Boris Sollazzo in collegamento con noi, forse non fermerà l'Apocalisse, ma ce la racconterà. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, per fortuna non è un'apocalisse questo Colossal, anche se risponde esattamente alla definizione di Colossal. Dobbiamo un po' dimenticarci, secondo me, il franchise X-Men come un franchise di supereroi con problemi, qualcosa che unisce lo spettacolo all'intimismo, all'analisi di personaggi che sono molto complessi, che forse ci ha fatto innamorare poi dei Marvel Movies della nuova generazione. Questo è un film molto più anni 80, un film in cui tutto è molto più chiaro, in cui c'è un cattivo che è il cattivo per eccellenza, appunto Apocalisse, il primo mutante, un semidio, anzi un dio che è straordinariamente vendicativo perché scopre che la propria razza non è più considerata superiore agli umani, ma anzi, come sappiamo bene, in qualche modo emarginata, seppur considerata speciale. Quello che noi ci ritroviamo di fronte è appunto il più classico dei Colossal, cioè una grande battaglia, un grande cattivo, dei buoni che si affrontano i loro problemi e le loro contraddizioni, ma con meno profondità del solito, ma con una regia estremamente sicura, estremamente salda, che permette a tutti di avere il proprio spazio, ha una visione, soprattutto produttiva, molto chiara, ed è intrattenimento quasi allo stato puro, lontano da quello a cui eravamo abituati per quanto riguarda gli X-Men, ma sicuramente di grande impatto sul pubblico. È molto curiosa come scelta anche a livello produttivo, perché è una virata abbastanza decisa rispetto a tutto quello a cui eravamo abituati fino adesso in questa nuova generazione di Land of Movies. Alla fine è un film, secondo me, che soddisfa forse non i palati più raffinati, ma la maggior parte dei palati, quindi devo dire che possiamo promuoverlo senza entusiasmi straordinari, ma possiamo promuoverlo. Beh, però è già qualcosa, insomma, visto che negli ultimi tempi i film di supereroi ci hanno fatto così, anche in certi momenti un po' ci hanno dato qualche delusione, però ecco, questo X-Men evidentemente non è di questa specie. Allora facciamo così, giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi, che è questo. C'era un documento che apparteneva a una persona, mi creda, molto importante. Se non lo dovesse trovare, questo esercizietto glielo può far chiudere in 10 minuti, va bene? E allora, avete intuito e direi indovinato sicuramente la voce, l'attore che sta dietro la voce che avete sentito. E allora, se avete anche indovinato di che film si tratta, scrivetecelo a larosapurpurea@radio24.it e provate a indovinare, perché la settimana prossima vi diremo di che film si tratta e chi ha vinto il DVD di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Andiamo avanti con un altro film che arriva nelle sale italiane, che è arrivato nelle sale italiane in questo fine settimana, che si intitola Whisky Tango Foxtrot. Il network ha bisogno di reporter in Afghanistan. E voi, ragazzi, siete i single senza figli di questa redazione. Kim, saresti disponibile a farlo? Di andare laggiù o piangere? Tutti abbiamo un motivo per essere qui. Qual è il tuo? Volevo scappare dal mio lavoro. Volevo scappare dal mio lunatico fidanzato. Che stiamo facendo, Kim? Volevo cancellare tutto. È la migliore storia della donna bianca americana che abbia mai sentito. Quegli stronzi volevano ammazzarci! Urrà, Baker, brava! È un film interessante, questo Whisky Tango Foxtrot, per la regia di Glenn Ficarra, che potrete ricordare forse per il passato per Crazy Stupid Love, tanto per dirne una, per Colpo di Fulmine, e anche con un cast interessante in cui svetta Tina Fey, ma anche Martin Freeman, ad esempio. Boris, una commedia da reporter potremmo definirla, no? Beh, il giornalismo è tornato incredibilmente, direi, visto la situazione in cui sta, nella realtà di grande attualità all'interno del cinema internazionale, in particolare del cinema americano. Qui forse la cosa più interessante è proprio che Recua e Ficarra continuano ad avere uno sguardo laterale sugli argomenti che raccontano. Hanno una grande capacità di fare una commedia intelligente, anche raffinata allo stesso tempo, però molto molto feroce e diretta, e quindi prendono apparentemente temi grandi come può essere quello delle guerre sporche, per però farcele vedere da un'altra angolazione, in questo caso quello degli inviati di guerra. Whisky Tango Foxtrot, non vi dirò, perché siamo insomma su una radio importante, però come potete immaginare l'acronimo WTF in inglese vuol dire qualcosa anche di molto più raffinato, e in effetti è proprio questo, no? Cioè il what the fuck che accade attorno a tutte le guerre, in questo caso per quanto riguarda gli inviati di guerra, che sono dei personaggi estremi, sono dei personaggi che scelgono di raccontare un mondo difficilissimo, un mondo sempre al limite, la loro è una vita di chi non combatte ma rischia di morire, e quindi è una vita piuttosto assurda, e ovviamente questo li porta ad eccessi come anche festini con alcol e droghe, il tutto declinato appunto come dici tu in chiave di commedia, ma quasi una commedia melò, quasi una commedia di genere, che scritta molto bene, diretta anche bene, come dicevi tu, con un cast molto interessante anche nei personaggi che non ti aspetti, perché se da Tina Fey, che ha anche il vantaggio di un ruolo ben scritto, ti puoi aspettare quel tipo di carisma, e anche da Martin Freeman sai che sa portare avanti un ruolo, specie se un po' strano, alla grande. Poi hai anche la sorpresa di una Margot Robbie che fino adesso era stata la più classica delle donne oggetto in vari film, no? Da Scorsese al film con Will Smith, che invece qui tira fuori un'interpretazione molto, molto interessante, in cui gioca anche col suo personaggio e con il suo aspetto estetico, e dimostra una maturazione interpretativa divertente. È un film pieno di eccessi come i suoi personaggi, anche pieno di vizi e di vezzi, ma il tutto costruito in un contenitore che alla fine ha la sua efficacia e anche una sua originalità. Quindi un film molto molto interessante che consiglio di vedere. E allora questo il consiglio: Whisky Tango Foxtrot, i film che escono questa settimana. Tra gli altri sono anche Mortadello e Polpetta, un film d'animazione sicuramente molto divertente per i più piccoli. Ci sono proposte anche come My Father Jack, ad esempio, un altro film italiano con Francesco Pannofino. Ma noi adesso vogliamo dedicarci a quello che è sicuramente, al di là di quello che riguarda gli incassi eccetera, il film della settimana, e fatemi dire anche uno dei film che contrassegnerà tutta la stagione italiana. Stiamo parlando della Pazza Gioia di Paolo Virzì, e allora sentiamone una piccola clip, ne parliamo un attimo con Boris Sollazzo, fra poco le interviste con lo stesso Paolo Virzì e con Michela Ramazzotti. Dice: sto troppo male per tenere il bimbo, una mattina vengono a prendermelo in otto. C'è anche i carabinieri. Allora curatemi, no? Datemi Elia. Che mi curate levandomelo. Tentativo di suicidio in detenzione? Te un po' di cazzi tuoi mai. La macchina! Abbiamo anche una macchina. Ci diamo una pezza gioia. Ci diamo alla pazza gioia, la voce di Valeria Bruni Tedeschi. Avete sentito prima quella di Michela Ramazzotti, protagonista straordinaria di questo film, che racconta di due donne con disturbi mentali importanti che vivono in una sorta di comunità. Sono due disturbi molto diversi. Una è eccessivamente esuberante, Valeria Bruni Tedeschi, la potremmo quasi definire una sorta di vedova bianca del berlusconismo. Dall'altra parte invece una Michela Ramazzotti tutta interiorizzata, magrissima, che vive ed elabora, e anzi non riesce a elaborare, un dolore straordinario, atroce, che ha vissuto negli anni precedenti. Queste due donne, queste due unità si incontrano e fanno scintille, ma si attraggono e diventano davvero un fattore a cui lo spettatore ci si attacca con il cuore, perché le segue fino alla fine, provando, vivendo quei sentimenti. Straordinaria per misura e capacità ancora una volta la regia di Paolo Virzì. Boris, un minuto per dirci, non ti dico perché andare a vedere questo film, perché sono tantissimi i motivi, ma qual è quello che scegli tu? Ma perché semplicemente è un capolavoro, è un Paolo Virzì che è nel pieno di una seconda fase di carriera felice, che è iniziata con La prima cosa bella, in cui fa dei ritratti femminili meravigliosi. Se devo trovarne uno è Valeria Bruni Tedeschi, un po' perché questo personaggio è quello del capitale umano che finalmente si libera e decide di vivere la propria vita, dandosi alla pazza gioia nonostante, come dice a un certo punto, sia stanca, sia nata triste, ma non rinuncia ad essere felice. Valeria Bruni Tedeschi secondo me non è stata mai così libera, bella ed eclettica. Si era rinchiusa all'interno di ruoli estremamente stereotipati e qui invece trova una libertà espressiva meravigliosa, che è quella di Paolo Virzì, che costruisce un racconto di donne meravigliose, di uomini mediocri, queste donne che sembrano la figlia e la nipote della Stefania Sandrelli della Prima cosa bella, che scrive un film di una delicatezza straordinaria, che libera i personaggi femminili dai legacci che spesso il cinema italiano molto maschilista gli mette, e l'hanno paragonato a Thelma e Louise, che secondo me è un paragone sbagliato. A me sembra molto di più un sorpasso al femminile in tutte le sue più belle accezioni. Ecco, mi avevi chiesto solo un motivo, ma ce ne sono veramente 100, 1000, 1 milione per andare a vedere la pazza gioia. Chissà quanti altri ne abbiamo lasciati lì, ma ne parleremo ancora, perché fra poco sarà qui con noi Paolo Virzì. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Rosa Purpurea. Siamo ancora qua, la Rosa Purpurea, stiamo parlando della pazza gioia di Paolo Virzì, fra poco ascolteremo il regista e anche Micaela Ramazzotti, una delle due straordinarie interpreti di questo film. Abbiamo sentito con Boris Sollazzo alcuni dei motivi per cui vederlo è un film che ti tiene lì dal primo all'ultimo minuto, che cresce con il passare del tempo, perché decolla decisamente il rapporto fra le due attrici che all'inizio appunto si incontrano in questa comunità e poi pian piano diventano come Thelma e Louise. Tra l'altro l'ha detto anche Paolo Virzì, non ci avevamo minimamente pensato a questo film, abbiamo pensato a tanti altri, anzi ci sono delle battute fra virgolette rubate proprio volutamente, delle citazioni ad altri film ma non a Thelma e Louise. Certo, un po' l'idea viene, sicuramente il film è un'altra cosa, però è un film che riesce a mettere in commedia, in road movie, un tema e un'esperienza di vita assolutamente drammatica. E questa è la grande capacità e la grande prova di queste due attrici che hanno lavorato in maniera opposta a quello che ci aspettiamo da loro. Micaela Ramazzotti, che è sempre stata ruggente sullo schermo, ha tolto molto, ha sottratto molto, è molto contenuta. Valeria Bruni Tedeschi, che abbiamo sempre visto un po' sofisticata, un po' rarefatta, è una sorta di tigre della commedia. Ascoltiamola in questa clip e poi l'intervista a Paolo Virzì. Perché non ci si ferma a prendere qualcosa, magari tutte e tre assieme a bere? Ci invita a bere un aperitivo a casa sua. Casa mia no, c'è un alberghettino qui vicino, c'è un mio amico. È un alberghettino, perché non smetti di darmi i pizzicotti? Basta che ci sia, guardi, un bel bar dove fanno martini decenti e io sono felice. Sto stronzo ci ha preso per due puttane, Ma no, è gentile. Sì, gentile, guarda qui, analcolico, anal vision 3D. Comunque non dovresti frugare nelle cose degli altri, Paolo Virzì, un film che racconta due matte per parlare a un pubblico che sta magari appena dietro quel crinale, perché come si dice da nessuno vicino è normale, no? Bravo, questo lo diceva Caetano Veloso in una bellissima canzone. Sì, però in questo caso loro due non è che hanno dei disturbi anche importanti, peraltro molto diverse. Probabilmente Beatrice è una che si è rifugiata nella insanità mentale quasi per mandare al diavolo il suo mondo e diciamo l'ipocrisia, l'anaffettività che la circondava, e l'altra invece è stata letteralmente fatta diventare matta per delle ottusità di leggi magari giuste, però siccome le leggi a volte, anche quelle più giuste, sono sceme, sono fesse rispetto alla complessità delle cose umane. E lei, che era una ragazza cresciuta in un ambiente meschino e derisa, circondata da una maldicenza, considerata una poco di buono, non è stata ritenuta idonea come madre, le è stato tolto, permesso in una casa famiglia il bambino appena nato, e poi è successo un fatto tragico che appunto da lì in poi la sua vita è stata un calvario ed è stata letteralmente fatta diventare pazza. Ci piaceva appunto raccontarle non in una forma seriosa o enfatica, ma rendendo queste due creature ferite protagoniste di una commedia piena di energia, una commedia scatenata, avventurosa, come per proprio render loro giustizia. Certo. No, e mi piaceva molto una cosa che avevi detto durante l'incontro prima, cioè questo fatto della fragilità, che forse è una condizione ovviamente non patologica, ma in questa società rischia di diventarlo, dalla quale ci si difende, ci si nasconde e la si mette in un angolo. Non bisogna sembrare fragili, però ho la sensazione che questa coercizione stia allargando la base della fragilità. Era una questione che affrontavano nel Capitale Umano, per esempio, era una battuta che diceva il personaggio dell'Agolino, questi ragazzi costretti a sembrare sempre dei vincenti, dentro nascondono delle angosce e poi vengono tutti da me in terapia. È il grande tema del mondo del benessere, del mondo occidentale che vive di psicofarmaci, insomma. Peraltro, se dovessimo fare il seguito del Capitale Umano, la cosa interessante è che i grandi fondi spregiudicati in investimento più così stanno cominciando a investire nel psicofarmaci, essendo il grande business del futuro. Il grande business del futuro. Cioè, è un tema che non possiamo che percepire come emergente e allarmante. Perché perlomeno per quello che riguarda il nostro mondo cosiddetto privilegiato, perché nell'altra parte del mondo disperato hanno altri problemi, la fame, la guerra, altre emergenze, altri allarmi, e infatti corrono qua. Invece, e qua siamo qui con le nostre paure, le nostre angosce, la paura innanzitutto che ci sia sottratto quello che abbiamo, e da una parte, dall'altra la paura, l'ansia di non essere all'altezza di questa competizione, di questa messa in scena del benessere di cui siamo protagonisti. Assolutamente. E abbiamo anche diminuito molto gli spazi della condivisione, che è un altro tema sotteso, certo, di questo film. Certo. Cioè, quanto meglio starebbero loro se ci fosse più condivisione. Certo, la solitudine del nostro mondo, la solitudine non solo delle persone malate, ma anche perlomeno invalide, ma anche di coloro che tutti i giorni, convivendo con la propria ansia, affrontano le proprie giornate di lavoro, spesso da soli, spesso nascondendo il proprio disagio, insomma, magari sfogando la propria aggressività su una bacheca Facebook, che può servire come sfogo, magari meglio che, diciamo, tagliare la gola al vicino di casa, come a volte capita. Ecco, se Olindo e Rosa fossero diventati due hater su Twitter o su Facebook, forse non avrebbero avanzato i vicini di casa. Senti, parliamo delle attrici. Sono talmente perfette nella loro diversità, nel loro essere composite davanti alla macchina da presa, che ci si chiede, è stata una scelta, cioè il cucito e il copione addosso, è stata una scelta che c'era già prima? Sono uno dei motivi di ispirazione del film, questa coppia, un'immagine, un'epifania che ho avuto vedendole insieme da lontano un giorno sul set del Capitale Umano. Si incontravano per la prima volta e Valeria stava precedendo Micaela in mezzo alla neve, mentre io stavo girando un'altra scena e stava accompagnandola dal campo base al tendone del catering. A un certo punto, siccome il terreno appunto era fangoso, era incerto, loro avevano, la Valeria aveva i tacchi, Micaela aveva delle scarpe non adatte alla fanga, la Valeria portò la mano e la accompagnava e la precedeva portandola per mano, e Micaela la seguiva con un misto di fiducia e di sgomento, e questa immagine era struggente, divertente, e dicevo: ma guarda quanto sono belle, quanto sono buffe, quanto sono matte, ecco, quanto sono interessanti. Avevo voglia di un attimo di mollare la scena che stavo girando per girare quella roba lì che stava avvenendomi sotto il naso, e quindi da lì ho cominciato a pensare che avevo voglia di fare un film con loro due insieme, che sono le persone a cui voglio bene, una me la sono addirittura sposata, ma che stimo molto come attrici, perché hanno qualcosa di, sono diversissime, ma allo stesso tempo hanno qualcosa in comune di selvaggio, di istintivo. Infatti Micaela, come dire, che io adoro a livello attoriale da sempre, nei tuoi film e tutto, e trovo che sia un vulcano irrefrenabile. Ma quello che mi ha totalmente stupito è stata la prova di Valeria in questo modo. Cioè, io trovo che è venuta fuori una vena di comicità brillante, quasi all'americana, che io francamente non conoscevo in lei. Beh, lì l'ho incoraggiata, l'abbiamo gasata a buttare giù la buona educazione, essere scorretta, essere arrogante, prepotente, tirar fuori, insomma, tirar fuori anche per certi versi il peggio di sé, ma in una maniera che è risultata poi esilarante, insomma. Manda in vacanza il tuo superio, manda in vacanza la tua buona educazione e dai sfogo a tutti. Invece Micaela, visto che lei si diverte a fare la camaleonte, cioè a trasformarsi in un altro tipo di insicurezza, la sua, quella che è pronta a risposta con slancio a diventare chiunque altro da sé, ecco, in questo caso lei è invece una donna sorridente, anche serena e estroversa, e gli è stato chiesto di essere invece questa torbida ragazza infelice, nasconde il suo sorriso, il suo sguardo, anche la propria sensualità, nel senso che è una qui è diventata una specie di ragazzetto ferito, ossuto e lacero. E così mi divertiva a mettere insieme questa cosa, perché sentivo che oltre a essere molto buffa era anche molto umana, molto struggente, era come un stare dalla parte di due persone così fragili e allo stesso tempo un pieno di voglia di vivere, di bisogno, di attenzione e di amore. Paolo Verzia, La Rosa Purpurea e fra poco anche Micaela Ramazzotti. Prima però è arrivato il momento di giocare ancora insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso. Ma sono tutti bagnati, sembrano foglie di insalata. Questi stavolta ci sparano. Ci sparano, sì. Vi abbiamo fatto sentire una voce molto riconoscibile prima, sono due adesso e forse le avete già riconosciute entrambe. Allora scriveteci il titolo di questo film, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere una delle due copie in DVD di questo film che sveleremo la prossima settimana. Adesso viabilità, fra poco torniamo ancora, ci aspetta l'intervista a Micaela Ramazzotti e poi la soluzione del gioco della scorsa settimana. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, rivoluzioniamo un po' la nostra quarta parte oggi, proprio perché avevamo voluto dare uno spazio maggiore alle interviste esclusive per il film di Paolo Virzì, La Pazza Gioia, che tra l'altro è partito piuttosto bene anche al botteghino, uscito di martedì, due giorni prima del previsto, anche per dare continuità rispetto al battage del Festival di Cannes, dove c'è stata appunto questa ovazione straordinaria, e sta macinando un 25.000-30.000 spettatori al giorno nei giorni infrasettimanali, chiaramente in questo weekend darà sicuramente una grande spallata, è secondo per il momento solo a Capitan America, e quindi per un film italiano di questa qualità è chiaramente un grande, grandissimo risultato. E allora ascoltiamo un'altra clip del film che vede ancora impegnata Micaela Ramazzotti e poi l'intervista con l'attrice musa di Paolo Virzì. Bimba sola che c'hai i piedoni, ti devi levare le scarpe, scusatemi. No, è così, no, ho spiegato le regole, d'accordo? Comunque sbagliate da secondare. Avrebbe bisogno di un contenimento. Nel 10° e 4° c'è proprio un capitolo sul disturbo ossessivo compulsivo. Prego. Pozzettina, non si chetta mai, parla anche quando dorme, parla. Allora, Michela, innanzitutto volevo parlare un po' del tuo personaggio e di come l'hai interpretato, perché tu, per quello che è stato il mio percepito fino adesso nella tua carriera, sei sempre stata una leonessa dello schermo, cioè una che lo occupa lo schermo. Qui hai sottratto, ti sei rintanata dentro qualcosa e penso che sia un lavoro, come dire, molto più difficile sotto un certo profilo, no? Sì, qui ho fatto una cosa diversa, sì, abbiamo fatto una cosa a togliere, è vero, dove c'è un'esplosione finale. Sono sempre stata affascinata molto da personaggi silenziosi, taciturni, che dici, ma chi sono? Ma che fanno? Ma perché non parlano? Cioè, mi è sempre piaciuto interpretarli. Era un grande sogno per me, perché sono sempre stata incuriosita, no? Perché vedi che non dicono nulla, che guardano, in questo caso lei guarda di nascosto dietro una frangia. E mi piaceva sempre stare un passo indietro a Valeria Bruni Tedeschi. Cioè, era lei a trascinarmi. Io stavo sempre dietro, un po' nascosta, un po' a guardarmi sempre dietro, come se avesse sempre una scia di moscerini attorno, sempre dentro una sua bolla, sempre dentro un suo pensiero ossessivo, sempre con l'auricolare ad ascoltare la canzone di Babbo. Cioè, lei è un personaggio piena di dolore, si colpevolizza tantissimo, non ha gran voglia di parlare, non ha voglia di condividere, è molto sospettosa nei confronti del mondo. Cioè, l'idea di andare dietro è molto bello. L'idea di non parlare, molto bello, impari ad ascoltare un personaggio che sta zitto zittino, me ne stavo anch'io zitta zittina, questo mi ha aiutato anche a me nella mia vita. C'è un film che uscirà una settimana dopo il vostro, italiano, a Cannes, che si chiama Fiore, c'è dentro la storia di una ragazza che sta in carcere e vive un amore attraverso le sbarre, fatto solo di sguardi col suo ragazzo, e anche lei vuole fuggire, anche lei se ne vuole andare. Mi ha fatto venire in mente questa cosa, il parallelo col vostro. Storie di donne che cercano una via di fuga in una società che le rinchiude dentro una pazzia, a volte patologica come la vostra, ma che a volte è una fragilità che rischia di diventarlo. È un tema forte, evidentemente, del cinema italiano in questo momento, è un tema che c'è nella società, è un tema che tu senti come un'emergenza, come un'urgenza. Ma io penso che le donne sono molto misteriose. Le donne hanno molti strati, ne hanno molti più degli uomini e spesso sono scambiate per sbagliate solo perché hanno una peculiarità, no? Che sia un silenzio, che sia nel caso di Donatella una cupezza, un po' più una fragilità, nel caso di Beatrice è più bizzarra e più sfrenata. Questo a volte nella società viene scambiato per folle, per pazzia, ma le donne, ma fin dal Medioevo erano erano considerate streghe solo perché magari avevano i capelli lunghi e facevano delle pozioni magiche, così, no? Da donna posso dirti la voglia di raccontare donne forse non virtuose, non edificanti, non eroine, ma donne come sono le donne? Che si sono perse in quel lago della fragilità, sì, che dicevate prima. Che, no? Sono anche sbagliate, che hanno la vita sconclusionata, perché le donne sono tante cose. È difficile trovare, non so cos'è la perfezione, io non credo che è una cosa che appartenga all'umanità. L'umanità è complicata, la testa delle persone è complicata e la donna lo è ancora di più all'ennesima potenza. E quindi quando qualcuno mi dice io sto benissimo, tutto bene, io sto bene, e io dico oh mio Dio, devo scappare da questa persona perché io non sto bene ogni giorno, cioè è impossibile la ricerca dello stare bene. Senti, con Valeria invece un'alchimia perfetta, riuscitissima, secondo me quasi miracolosa, che dona grande speranza anche per il nostro cinema. Un ricordo che ti porti via di questo film con lei? Beh, ci siamo portati insieme questi due personaggi per 3 mesi di film, l'abbiamo vissuti veramente da subito. In qualche modo lei era Beatrice, io da subito in qualche modo ero Donatella. Siamo tuffati tanto dentro loro, abbiamo cercato di essere quelle persone lì, in quel momento, quelle donne lì. Mi piace il fatto che lei, come me, è senza pudore davanti alla macchina da presa, e in questo ci siamo trovati, perché tutte e due non abbiamo pudore, non abbiamo paura. Stiamo lì a pensare, devo stare, qual è il mio profilo migliore, qual è il profilo. Siamo lì e quello che succede, succede, non ci importa niente, cerchiamo però una verità. E questo mi piace di lei, che cerca la verità, che è sorprendente, e quello che gli viene in mente in quel momento fa. Quindi ci siamo trovate in questo tantissimo. E allora Micaela Ramazzotti alla Rosa Purpurea per raccontare questa esperienza straordinaria nel film La pazza gioia di Paolo Virzì, che come avrete capito è assolutamente il nostro consiglio della settimana. E allora a questo punto andiamo a risolvere il game di 7 giorni fa, perché ci sono centinaia di nostri ascoltatori trepidanti per capire se hanno o non hanno vinto il premio in palio. La clip era questa. Okasa! Nani? Nanda, buku no tsukiru okan dashatte. Datte ojinsan obasan irasshan janai. Demo buku no tsukiru desanakute tte ii janai ka. Oh, la clip era in giapponese stretto, diciamo così. Il film era Viaggio a Tokyo, ma avete indovinato in tanti. Bravi, bravi, bravi. I più veloci sono stati Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli, e Graziano Meneghin di Codogne, provincia di Treviso. E a loro andrà il premio, che era proprio questo cofanetto straordinario di Ozu, del grande Yasuhiro Ozu, maestro del cinema giapponese, al pari di Kurosawa, al pari di Nagisa Oshima, insomma uno dei più grandi, grandissimi nomi internazionali. Per raccontare bene cosa c'è in questo straordinario cofanetto, quali sono i film, quali sono i contenuti, e anche un libro bellissimo, noi ci ricolleghiamo con Film TV e stavolta troviamo una presenza femminile sempre gradita, Ilaria Feole. Ciao Ilaria! Ciao, ciao! Allora, raccontaci un po' questo cofanetto Ozu. Certo, tu hai usato una parola molto esatta che è straordinario, sicuramente è un cofanetto che non dovrebbe mancare nella collezione degli amanti del cinema orientale, degli amanti di Ozu, ma direi degli amanti del cinema tout court, perché è un cofanetto veramente imperdibile, tant'è che è stato realizzato anche grazie all'amore dei cinefili. L'ha realizzato la encomiabile etichetta friulana Tucker Film tramite un'operazione di crowdfunding, quindi è stato realizzato anche grazie al contributo in prima persona dei cinefili che hanno voluto mettere il loro contributo per realizzare questo cofanetto che contiene 6 titoli, tutti restaurati in digitale in 2K, che sono poi i titoli che durante il 2015 sono stati anche distribuiti nelle sale italiane, in alcune fortunate sale italiane, e hanno avuto anche un discreto successo di pubblico, a dimostrazione del fatto che il cinema di Ozu è assolutamente sempre verde, assolutamente immortale. I 6 titoli del cofanetto lo dimostrano appieno, come giustamente dicevi, contengono, tra questi 6 titoli c'è anche Viaggio a Tokyo, che è stato appunto eletto da Sight and Sound il film più bello di sempre, e gli altri titoli sono Tarda Primavera e Tardo Autunno, che possono essere visti come un dittico dalle tematiche vicine. Fiori d'equinozio, Buongiorno e Il gusto del sake, che è anche l'ultimo film in assoluto di Ozu. Oltre ai film, che sono tutti ovviamente in lingua originale con i sottotitoli in italiano, il cofanetto contiene anche un libro di Giorgio Placereani, Ozu Yasujiro, Autunno Primavera. Appunto per approfondire il cinema di questo autore enorme, di questo autore imprescindibile della storia del cinema, che ha saputo raccontare il suo paese, ha saputo raccontare lo scontro tra la tradizione e la modernità del Giappone, ma ha saputo soprattutto raccontare i movimenti del cuore, dell'animo umano, che tuttora rendono i suoi film assolutamente attuali, di una contemporaneità e di una modernità spiazzante. Grazie Ilaria, ci risentiamo. Grazie a voi, a presto, alla prossima. E la nostra regia, che come sempre inflessibile, ci sta raccontando con queste note che la trasmissione è finita, il tempo anche. Allora, diamoci appuntamento a sabato prossimo, domani sera il Palmarès di Cannes. Noi invece torniamo sabato alle 18 come sempre con tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio.